Ciao Marco, buona serata. funzionare, non c'è problema. Se mi dici come esce anche questa di radio, così poi ti facciamo fare un bel QRT tranquillamente. Bulldozer, già va bene, ma amplificata anche questa, però quella natalina è un pochino più chiara, per carità, però anche questa sua non è male, buona, amplificata, 5, forse leggermente più bassa, diminuire appena appena, un pelino. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Lu, la tua va sempre bene. Ciao, Marco Scorpio, no, QRT. Sono arrivato a casa, c'ho una fame, adesso stacco i pesci e rovescio tutto in terra. Ciao, Marco, a te, ciao. Buon poletti, buon tutto, buon rientro e ci sentiamo le prossime. Ogni tanto io mi faccio sentire, ma quando ne ho voglia. Avanti, che ne stava fischiando, come stava portando, avanti. C'è problema, adesso vedrai quando arrivo tutti fuggendo e poi mi metto anche sul tetto a voce. Ciao Marco, comunque arrivi con tutto, ciao, e attenzione, anche quelli che passano con gli aerei si spaventano. Ciao. Avanti il fischietto, chi è che fischiava? Avanti, buonasera. Non hai danno entrando Natale. Mi sei sbagliato. Appagappa, tutto Roger, Natale, una bomba sì. Questo è il tarma, per esempio nell'altro non si adattava, in questo dove c'è l'MP4 non si adatta. E c'è una persona in questo piccolino qua che ragazzi, mi hai visto tu, quello piccolino, quello nero. Ma guarda, io Natale ti dico una cosa. Per ogni radio ci devi adattare il microfono e così sei tranquillo, se sai che questo qua, questo Thunder T2 sta uscendo bene, con quello lì lo devi lasciare lì, almeno sei tranquillo che se andate nella radio dopo la famiglia esci bene. Ogni radio le devi adattare il microfono, ci niente da fare. Tac, l'MP4 si adatta al President e a quell'altro. Adesso non so se è meglio sul President o sull'altro, su quello che ti ho fatto sentire poco fa. Se devo darti il mio parere, Natale, quell'MP4 c'è bene sia con uno che con l'altro. Sono due radio diverse, però con tutte e due va bene. Ho capito. Però un MP2 si adatta più qua e nell'altro che c'ho, quello grigio che conosci, ma tanto ce l'ha il suo microfono, non in caso, ma è quasi una prolunga, mi si può parlare lì. Lasciato qua, tanto cosa viene a tutti il caccia a me del coso. Se lo lasci qui e quello là, con la prolunga, ecco, per portare se non la parte all'altra. C'è una portante sotto di te, avanti che è questa portante. Avanti? Ecco, mi sembra segnare il pacchetto. Pacchetto, sì. Chi c'è il pacchetto? Guarda lì. Deve essere lui, deve essere. Guarda, c'è tutta la Neschi, Antù. Anche se sei tu, dai il colpo importante. Ma non stai uscendo bene. Sei tutto un innesco. Era il segnale, me ne sono accorto che era lui. Ah, certo, Luca, avanti, Luca. Cappa, sto uscendo adesso. Cappa, adesso stai uscendo. Cazzo, non riesco a trovare le connessioni, cazzo, di questo cazzo di microfono, porco giù, dannaccia, Marina. Al testo non ce l'hai. Non ce l'ho, no. Come fa a trovare? Che così lo trovi? Il testo si vuole. Oh, porca la miseria, c'è infame guarda. Ma ci viene giù di 5 minuti la ciappo di connessione. Ma che con due pezzi di filo va bene a farle, oh, fa che? Come? Con una lampadina a 12. Ma cappa. E devo metterli lì dove entra lo spinotto? Vabbè, col baracchino acceso, ma te li fino a 2, c'è anche la lampadina. Perché la prima cosa che devi trovare è la ricezione, se l'apparecchio si sta zitto quando togli il microfono. Metto il coso, trovo la ricezione e poi dentro è portante e radio, gli altri due. Io me lo faccio col tester, però quando si è donna che cosa deve fare? Davanti che vuole la lampadina, capito? Schiacci la portante e quando lo attacchi si accende. Ma quali sono i fili del microfono? Io ho il microfono in mano, adesso è giallo, rosso, nero e la bassa, così è. Ma che connessione ha quel baracchino, Mitra? 4 punte già. Come sono fatte? Midland o invertite? Forse sono invertite. Ah, sono Midland, e lui le deve fare come? È un microfono nuovo che lo sta cercando di attaccarcelo lui, solo che non riesce a trovare le connessioni, è omologato quell'apparecchio, ha le connessioni degli omologati, come della 48. Non ho capito Vattalia, allora c'ha lui il baracchino omologato, il microfono però c'ha le connessioni invertite, così è. Ah, è così? E quindi non c'hai le connessioni Midland? No, io ho l'ala 87, però sono invertite, capito? Me l'avevo detto già per Paolo che erano invertite le connessioni, capito? No, quelle non sono invertite, perché Pierpaolo mi aveva detto anche a me, quelle sono in crucio, e ha detto che sono un casino quelle connessioni, capito? Cappa, e allora come si deve fare? Così in crucio io non te lo so dire come sono. Ci vuole un tester, ci vuole, se non trovi la portante è un casino. Sono incrociate, non è che tu devi invertire, diciamo, il rosso e il nero, lo porti giù e la massa la porti su, non è così. Sono incrociati, capito? Ah, cappa. Ok, dai, adesso provo a fare così. Sì, ma se non fai un tester è un pezzo di vivo, se non sa come ti fa funzionare il pezzo di rubini, tu non la ciappa, ma così ti ammazzi, siccome ci va. Belli, perché cioè, se sono da portare, da, per esempio, vedi, io queste delle mie PP5, ce le ho per il tornado non ha le connessioni Midland, ce le ha invertite, capito? Se io questo qua lo devo portare a connessione Midland, devo portare i cavi di giù, li porto su, e quelli di su li porto giù, quindi è una cazzata a fare, ma quello lì ce l'ha in croce, ho capito. Sì, infatti in quello Midland che ho comprato, ho fatto così, ho invertito le connessioni e ha funzionato la prima, senza guardare né c'è né nulla, perché lo sapevo che volevano invertite. Però se trovi qualche cosa di più complicato, ci vuole un tester per forza e poi un pezzo di filo per far trovare la ricezione e la portante. Poi una volta che trovi la portante è fatto. Infatti, però si caglia pure un mutuo questo, prima bisogna cercare la ricezione, dopo la portante, la subito la radio. Infatti, perché secondo me non ti conviene farlo così a occhio, perché tanto ti fa impazzire. Faccio l'ultima prova, se no se la piglia nel corso. Ah, quello lì qua, lo dai un attimino a Natalino, a Pierpaolo, lo porti qui, lo dai a Pomponio, col tester 2 secondi e ghiaccio è fatto. Infatti, allora, quello di Pierpaolo, le connessioni, tu prendi qualsiasi attacco Midland e funziona bene. Infatti Pierpaolo me l'ha detto, invece nel suo sono proprio in crucio, capito, sono a terra. sono fatte a per le connessioni, quindi secondo me è un tester che provando così allo stagiare, secondo me ti fa impazzire, no? Allora sì, ma se no non mi cavo in piedi, Massimiliano. Lui cagò a tester, perché fossero state connessioni normali, bastava che facessi quelle del Milan e andava bene. Glielo controlli, le dissaldi, i fili che ci sono, glielo fai al Midran. così tu lo spinotto prende la macchina direttamente al baracchino, non puoi usare la lunghetta ma un microfono. Infatti, così farò. Ok, dai, vi ringrazio, ma stai pulita la radio? Va bene, per me si è radio 5, non c'è problema. Ok, vi ringrazio, un attimo di bianco, chiudo tutto e poi si vedrà, dai. Alla gara, dai, lo più blu. Ma mi sono cinema. Natalos. Natali, meno il bianco nella gamma, la mi saluti. Va bene, prego. Finidos, ho finidos. Mi sono fermato 5 minuti a rilassarmi, che da a giocare caro ti si impulideva, mamma mia. Pagava, vabbè. Oh, adesso se lo piatta anche Maino, a casa sua, perché deve sostituire il pano sul tetto di casa sua, nella parabola, perché dice che è mezzo pratico. E lui c'ha quella Storno 27 già, ha detto che si piazza con l'antennino e fatto l'alimentatore da 3 ampere, ce l'ha col baracchinetto, ce l'ha, ha detto se lo piazza a casa. E perché non si mette un'antenna tipo, come si chiama, quella lunga, la Ringo, così almeno rende di più. Già, ma allora da dove lui ha detto che addirittura vede la casa mia, si è preso i cannocchiali e vede la casa mia. Lui è ancora più in alto di te, quando tu sali sul tetto che ci mette quell'antennino, secondo me di lui, tanto da lui non è una fattibilità per gli usare. Per farsi la chiacchierata così quando è a casa non va più che bene. Cava, cava. Sì, lui è molto più in alto di me. Bisogna salire per... io sono un fossato con fratello. Allora, tu fai conto che già abita al sesto piano, lui, da dove deve piazzare l'antenna per entrare dentro casa sua, il palazzo da 8 piani, ci vogliono 36 metri di cavo. Cacchio! Come mai così tanti? Perché le parabole loro ce l'hanno proprio al centro del tetto, capito? Quindi tra fare tutto il giro e arrivare al sesto piano, entrare dentro casa, ci vogliono tutti quei metri. Vabbè, comunque lui già ce l'ha il cavo, no? Mi sembra che non mancasse da 50 metri ancora, se non di più pure. Ne aveva preso 100 metri o 150 metri, aveva preso il RG58, a me mi va bene. Poi c'ha quell'alimentatore piccolino, anzi piccolino, c'ha quella mia, 25 ampere, e ti ha rampato il laboratorio dentro una scatola, non lo stiamo ancora usando. Questo ti porti quello lì, ti porti quel 550, la sera quando capita sei a casa, cazzo li accendi, ti fa la chiacchierata. Tanto non è che accendi tutti i giorni, lui, perché non è che ci sia tutti i giorni a casa, però quando capita lì a casa e coso, ci fa la chiacchierata. Infatti, almeno lo usa, perché non l'ho più sentito manco di giorno, perché prima lo usava. Prima lo usava, ma magari, meglio lo sai, laboratorio c'è sempre da fare, a volte magari si è attaccata alla televisione, a consegne, a fende, e non ti viene manco la voglia di accendere. Però a casa sai, il sabato, la domenica, cioè ci siamo tutti, una chiacchierata si può fare. E certo. E quindi ha detto l'altro giorno, ci ha detto sul tetto per controllare, non so, questo palo, che era frasico, boh. E ha detto che vede tutto quanto, addirittura vede tutta la zona di Muros, tutto Ploaghe, tutta quella zona di Alghero, da sopra il tetto, Pablo, eh. Ha detto che vede tutto quanto, casa mia, tutto attorno. Io sono sicuro se lui ti sopra esce bene. Infatti mi ha detto, mi piatto l'antennino nella punta del palo e sotto ci metto l'antenna della televisione. Cava, cava, infatti. E anche io vedo tutto quanto, ma si vede dal tetto, già avevo una visuale allucinante, vedo tutti i paesini attorno a Sassari, tutta la zona del mare, tutto quanto. Addirittura la casa, quando ci sono delle giornate belle, si vede proprio Platamona, Porto Torre, si vedono anche le barchette. Fai il conto, lui linea d'aria come desiderio, cosa ci può essere da casa tua a casa sua? una quindicina di metri più alto non potrebbe essere. Sì, ma diciamo che a me mi viene proprio avanti e tutta la zona, mi viene più avanti, lui rimane più in alto, rimane più indietro, anche se è più in alto, ma rimane più indietro di me, capito? Io ce l'ho proprio avanti la zona di Plattamonte. Allora già, quando io mi affaccio mi sono atterrato, vedo la parte di, diciamo, del mare verso Castelsardo, là. Le punte della Sinana, però lui Plattamona per esempio non lo vede, però da sul tetto lui vede tutto Plattamona, Castelsardo, tutta quella zona lì. E vabbè, già, e vabbè, 15 metri più in alto già non sono tanti, già non sono pochi, Non sono pochi, no. E comunque l'antenna che deve vedere, dai, se l'antenna vede la zona, la prende bene. Perché un conto è radiare dall'alto verso il basso, un conto è dal basso verso l'alto, secondo me. Perché io mi ricordo che andavo giù un portero che va attorno, ma sono levato 8 metri già dal tetto, e gira gira non arrivava a Sassari. Certo. Magari tu perché sei in una zona, eppure quella zona lì è buona, perché il Walter da lì prende un po' di stazione, di cose, vabbè che lui anche usa anche... E sotto, se mi stai ascoltando faccio un attimino di bianco che si è svegliata mia figlia. Ciao, io ti ascolto, grazie tanti. Ciao, cara. Sali. Sali. Di KP2. Gianni. Ti avanti. E buonasera, sono KP2. Ciao, Natalino. Ciao, Bulldozer. Io sono arrivato da Sassari. Sono qui qua che per miracolo. Come arrivo adesso, Gianni? Che sto schermando i carri. Va benissimo, qua ti ascolto forte e chiaro, molto forte il radio, quello chiaro. Il segnale già mi interessa, il segnale, perché avevo i cavi che non andavano bene. Segnale 59. Ok, sto dietro la Sassari. Però questa ruota qua sei da me, un cretino è riuscito a venire spegne attraversato a raso. Sì che mia moglie se ne accorta, abbiamo inchiodato la macchina, proprio nella vicina che c'è nella muro sulla superstrada. Mi è uscito da uno svicolo, ma guarda, se la macchina l'ha fatto un altro, mi ha scappato di molto stasera. Carità, ogni tanto ce n'è uno. E io non potevo essere andato a prendere la mia fila, non ce n'era uno, mi si è coricato nella superstrada, proprio prendeva tutta la corsia. Per fortuna che me ne sono accorto, un ringalo cotto. Mi sono fermato, dove lo stai facendo qua? Mi pare, mi sembrava che l'avessi vestito. Dice, ho bevuto due bottiglie di whisky. Dice, tanzati dalla strada, forza, io, pesadini. Non ce la faccio, ha giubilato con tutta la forza che avevo, lo sono levato e l'ho portato dietro a guardare lì. Poi ho chiamato l'ambulanza a portarselo via. Ma questa è una cosa che si sta rompendo le scatole da te, cosa domani, e io che ricordo parlo al cellare. L'altra volta, quando Claudio ci aveva 7 anni, lui in questo tipo di fluida, ci aveva con la moto qui per trovare la ragazza, fidati e mi ha preso il vestito a Claudio, l'ha tirato di striscio, una cambia a cero, grazie la sera, se non l'avrei capato di oggi. Adesso stasera ho la testa c'era una rotonda disegnata in terra che si era travale perché era disegnata in giallo. Beh, la cosa che questo ha tagliato la rotonda e per poco me ne viene addosso, se non me ne accorgo, perché guardo sempre gli specchietti, se non me ne avviso me ne viene in alto, guarda, e stava prendendo anche la parte grande, mi dico a Gianni. Io sono rientrato piano piano insieme a casa, eravamo fino in nulla, andiamo stasera o andiamo domani mattina, andiamo stasera o andiamo domani mattina, però la mattina già poi non ho voglia di stare andando al suo posto e rientro e poi andiamo e già, e lì invece, molte volte, cioè questo mi viene con le scarpe dalla volta di Claudio, lì che era il cappello, cioè un buio. Non lo so se è quello bianco o quello bianco e quello dei palanchini. Quando mai uno da come si chiama riesce a traversare una strada pericolosissima, stretta, quella che scende alla superstrada, che già lì l'ha fatta, forse mi sembra. E dalla parlata già di uscito, c'è una salentina della campagna che a pari specchi ha tirato questo per salire al muro. Poi l'ho visto l'ombra che mi ha dato subito voce, ho ricciolato, perché una volta già da lì. Papà, io sono arrivato a casa, mi scarico la per poi ripeto. Sì, perfetto, lo facciamo qui a casa io, infatti ho detto, lo sento a bomba. E la famiglia sta arrivando come segnale, come buono e no. Miglia, se penso che sembravi seduto vicino a me quando stavo salendo in macchina. Figurati adesso che sono a casa. Io non so come ti stia arrivando a te, però tu mi stai arrivando benissimo, Gianni. Ok, no, tu mi stai arrivando 9:20, Natalia, era il capo che aveva l'antenna dell'R8 che giocava, abitando lì vicino a me, qua mio di scaglio. Dove il segnale comunque è più di 9, confermi. Ehi, va benissimo, va. Ma perché prima sentivo, allora mi sono messo la tali, ho smontato il microfono, tutto ok, era questa roba della radiofrequenza la tali. Infatti quando si alziava a portare del Pisa la lancetta del coro mi segnava oltre, ho detto per rimanere 200 Pisa, non c'è qualcosa che lo fa, poi me l'hai detto tu, ho eliminato quel pezzo di RG58, adesso ne fuori il rosmetto e ho messo l'antenna diretta alla gente o più con l'altro spessore normale perché dovevo cambiare le connessioni. E già va bene. Gianni Capri 2. Che vuole? Ti volevo salutare là, bulldozer da questa. Possiamo lasciarmi a sì che ti ho sentito, quindi che stavi andando. Santiago 4 come segnale, dai, la radio non è perfetta, forse tra me e te c'è un po' di zona negativa, dai, comunque riesco a tirarti fuori e ascoltarti, non c'è problema. Tu come mi dai il rapporto di segnale verso Muros? Io arrivi 8, arrivi 8, e capito, a me mi arrivi benissimo, ma la radio è incomprensibile qui. No, ti ascolto, sono in cuffia già, comunque non riesco a capire questa differenza, tu segnale 4, io segnale 8. Non lo so, si vede che tu che antenna c'hai però. Io ho la Mantova 1. C'hai una 58, io ho un'antenna da un quarto d'ora, c'ho una sigla, la segna, e quindi hai capito, l'antenna è quella che la mia, diciamo, è l'antenna dei poveri, però tu con quella lì arrivi abbastanza bene, Santiago 8, e ci avete detto, stavo guardando qui, rimieni a farti. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fatto. Comunque, Massimiliano, dopo tranquillamente che sono sul banco qui, e devo finire di controllare quel capo dell'antenna. Rilasciate i Natali e per fare girare, poi non so che c'è altro, abbiamo fatto un ping pong con Gianni poco fa, e lì c'era qualche altra persona, mi scusi, ci ritenga super salutato la batteria. Anche a te, Massimiliano, ti metto il cambio, fai girare, ti ho rilasciato Natalino, avanti Natalino. E ok, dai, buon tutto, dai, le prossime Gianni, non c'è problema, riprendi Massimiliano. Ah, ma dai, ciao Gianni, buona carica, quando va a fare buon tutto, dai, siamo qua, non ci stanno problemi. Niente, Natalino, anche qui è quasi pronto, e mi sembra che anche io faccio un po' di stand-by, perché in realtà per il caso come intende a piccheria. Sì, ok, non c'è problema, là già faccio un po' di anch'io e mi mangio qualcosina e già ci sentiamo, non proprio, siamo dopo allora. Natali, perché sei così in basso adesso di radio? Sì, perché c'è un microfono lontano. Ciappa. Un secondo, chi è sotto Natalino, sta mettendo la portante, avanti. Mi senti? Sì, chi è? Guido la Vespa. Chi è? Guido la Vespa. Grillo Vespa. Sì, sì. Guarda a te, buonasera. Guida il camion, sì. No, negativo, non le guido il camion io. Ah, guida il punto tre. Chiava, chiava, poco. Ciao, saluto. Ah, ciao, poco, buonasera, ben ascoltato. Aspetta, che... se qua c'è un'altra portante, 9, quasi e 30. Gigi Vulcano, Gigi Vulcano, ci fuori, porta. Sono te, sia lui. Luigi Vulcose, perché sta arrivando a fondo scala qui, non è... Gigi non arriva così, non è Gigi. No, ma c'è un'altra anche qua, dai, non c'è problema. Ok, dai, Popo, scusa, ma non ti ho ascoltato perché c'era la portante. Avanti. Gelato. E qua era quasi a fondo scala. No, c'è di vicino. Se come ascolti adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta un secondo, Popo, perché sei così in basso di segnale? Non lo so, sono antenna, non lo so. No. No, ci sentiamo dopo, sono KP2, ciao. Ciao, KP2, ci sentiamo dopo, dai. Popo, non sei tu, eh? Guarda, 1, 2, 3. La parte di telecella, 960, quasi sta arrivando qua. E cosa è che sei combinato? Nulla. È l'apparecchio normale, col microfono normale. Gli ho comprato un microfono di quelli della Midland e gliel'ho piazzato. Però posso piazzare anche l'altro che mi ho fatto la prolunga. Ragazzi, ma qui stiamo arrivando con lo scala quasi. Andate bene, bene, sono contento per te. Te l'ho messo tutto bene a posto, là. Mezzugai, mezzugai, buon buco. Ehi, cosa c'è, cosa c'è? Ho sentito che eri con io. Strano che mi senta tante cose, non lo so, ho sempre detto tra io, cioè volevo il tratto d'aria, a meno che non sia pigliato poco tante, la cosa vuoi ti dica io, boh. Cioè, stamattina era questa cosa qua strana. Ma non è attivo, qui da me con gli strumenti del gas mi stai arrivando a 9.40. Però già va bene, va. Sei preoccupato, la verità ero preoccupato. Però c'è un rumore sotto, Antonè, quando parli. L'imitazione, che non ce la fai, quello 5A, che lo sai, quello famoso che c'ho io, IBC, come si chiama, non si vede nulla. Ah, ecco, hai già capito. C'è un che ci fatto quasi 18 volte questo apparecchio, non ce l'ha fatto quello. Quando parlo si è svegliato, ma per il display, cioè di un display, la luce si abbassa. E allora stai facendo così perché sei sottoalimentato, Antonè. Per questo infatti. Mi provate a uscire. Vabbè. È un apparecchio che esce di meno, non ce l'hai? Io ce l'ho vinto, che c'ho. Se quello che non ho è il mio, ho dato il mio in prova. Cioè in prova, gli ho dato il mio, ce l'ha comprato. Poi lui l'ha bruciato e l'ho prestato l'altro. E quindi mi trovo senza palatina adesso in pratica. In teoria. Ma in pratica, no in teoria. E beh, quello là non lo puoi aggiustare, Antonio, cosa c'ha? C'è aggiustato l'altro, è a posto l'altro. No, quello che ha bruciato. Si è aggiustato, deve venire a ritirarselo. Se ci viene, non lo so. No, andrà a dirlo. Perché quello là che stai usando adesso è troppo forte, magari non ce la fa l'alimentatore. Per quello. Vabbè, già mi arrangerò, ti preoccupare adesso, domani telefono, mi faccio vedere quella cosa e poi vediamo. Domenico, buonasera. Scuola la candela. Antonino e signor Antonio, buonasera per i sentiti. E allora Domi, andando? Che tu stasera di là tutti cosa ne sono? Hai due grandi? Vabbè, questo qui è grande come volume, quello là è grande perché è grande e a tocco la parola di guida che già c'è in radio, se vuoi trovare un'altra volta tanto non va, ma sono venuto io, funzionava, ho toccato la parola di guida e boh, ha funzionato, vabbè ci penso io, dai, ho capito, seguo io. Dopo domani così il tuo sistema. D'accordo, io ho provato a toccarlo, però non va. Vabbè, io qua non posso neanche provarlo, non so che me lo dia. Perché tu si incendia qua. Io ho due stazionari con la corda fuori, quindi figura di due quanto sarà. Non posso provarlo. Se no volentieri avrei fatto la prova. Mi hanno dato la prova che è tutta forza. D'accordo. Avanti Domenico. Buonasera signore, buonasera, ben sentito, dai. E allora cosa si dice stasera? tranquillo. No, no, senza rompere palle, capito? Buonasera Domenico. Buonasera Domenico. Buonasera signor Falchetto, buonasera e ben sentito. Allora siamo partiti, eh? In Partesia verso la città di Lamoni, guarda, visto in Partesia. Chiama di Rogero, buon trabacco allora, eh? Moravito, Moravito. Il mio amore di Rio è sempre quella lì, dai. Tanto se mi vuoi sentire, no, questo lo trovo la mattina presto. E mi senti, dai, dai, dai. È positivo Domenico, positivo. Hai capito Domenico, eh? Perché? Gli piace viaggiare di notte? Oh, vabbè, da una parte c'è ragione, c'è meno traffico, eh. Gappa, gappa, un attimo che io sto saltando una questione, riprendo subito, eh. Comunque salutoni Domenico, tutte le migliori a domani mattina se cucine, ciao ciao. Domenico, io, ma sei già partito? Sì, io positivo, ma c'è andato via l'Italia questo momento. Intanto noi siamo qui in frequenza, poi ti faccio di dare, o quando capita, ci di dare se dove ci ascolti. No, ma non te lo posso dire fuori adesso, dai. Tu, secondo i giorni, ti ascolto anche tra Ultimo Adler e Ozzigri, capito? Poi arrivi qualche punta, Zona Madonna di casa, capito? È l'unico, dai, è l'unico che arriva quella zona lì, sì. Ci appaia, ma la Madonna di casa non è solo lontano. Quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, quanta ricco, dopo la quell'aggeggio Natalì. Eia, adesso gli ho messo anche questo che gli ho preso da Tonino, mi. Questo è quello normale. Però te ne vai andando. Adesso sto andando con quello, ma gli ho fatto la prolunga e posso attaccare anche l'altro. Ah, va bene, meglio così, questo gli ha fatto, va bene allora. Sei con tutto a posto, sei contento, sì? Sì signora, sì signora. Bene, va bene, meglio così. Ecco lo scenotto, sì, mi ha trovato la vedi, la tariffa. Eia, l'ho fatto la prolunga per attaccare quell'altro, no? La prolunga l'hai fatta la stamattina. Io ci ho chiesto se avete trovato la femmina per poterlo collegare bene in modo che fai un attacco veloce e usi un microfono per due apparati. Sì, gli ho fatto così, l'ho comprata stasera. Adesso perché ce l'ho meno messo vicino al letto questo qui, no? E mi ho messo il microfono normale perché mi viene meglio. Gappa, sono contento per te. Mi fa piacere. Gava, te ne esce bene anche quell'altro il microfono. Gli ho messo la presa femmina, così tac, c'ho il filo e andrà bene. Sia qua che là. Hai capito, Topo? Ha pigliato la femmina così glielo infila. E allora, senza infilarglielo. Ma sai che ti nervaria. Adesso la tengo per me a letto tranquillo, capito? Perché si mette l'apparecchio nel pomodino e non c'ha bisogno di un alimentatore. Ehi, gappa gappa. Ah, va bene, già va bene, lascialo fare. Non se lo può permettere. Quello è vero, non mi tira più. Se non vedo qualche donna buona, no, non mi tira più. E cos'è? Tutto morto e perché lumi? No, io non vedo sempre con i campi umidi ogni volta. Gappa gappa, va bene, burbu, Natali. Poni una pizza di io non so cosa, sono in campagna. E allora, te lo immagini questo domenico, gatta? Sempre infamando la gente, sai, ma quando lo trovo, gatta, già lo sa che è più piccolino di me, lui. Io non lo sento bene a Domenico, però, e ho Mari. Io lo sento bene, ti ha chiesto cos'è che hai detto, davvero, comunque, lui ha detto che il giorno di chiedere che ci trova, però da lui di tanto, lui, intanto ha detto che sei più piccolo di lui. Il rimorchio sta più lungo. Beh, io non lo so, è una cosa vostra fra voi due. Io non lo so, lei ha detto che sei agli sei mesi praticamente. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Bisogna che lui mi veda in opera per saperlo, capito? Lui non mi può vedere in opera e quindi non lo sa se io sono alle sei e mezzo oppure no. Sarà, io, come diceva quello, non metto il dito, io abito in campagna. No, in campagna abito io. Anche io, qui passo il trenino, qui vicino, quando fischia non si sente niente. Tutto, oh, signor. Prego, Cucu. Vedi, a Domenico io non lo comincio già a non sentirlo, perché sono chiuso, se è alto l'antenna guai. Sì, non lo so, io lo ascolto bene, gatta, il positivo, forte e chiaro. E invece io no, era incomprensibile già, figurati, ecco perché ti sto dicendo che sono chiuso da tre parti io. sono chiuso a destra, a sinistra e dietro, davanti solo sono libero. Questo Alghero, Porto Torre, da quelle zone lì. Però se alzo l'antenna vedrà che anch'io lo sento meglio. Ecco, Pagappa, Domenico, a che altezza sei arrivato? Dicendo, il giorno che noi saliamo all'antenna, Mario, se ne avremo quattro risate. Lo vedremo, va. Tra poco lo vedremo. Io sto iniziando a raccogliere i pesci e a mettere da una parte, dal tubo rocciti, in poi sto iniziando a mettere i pesci da parte perché voglio vedere come si mettono e se si mettono bene uno o l'altro. Infatti, poi troviamo la maniera di fare il bloccaggio, no? Per fare il bloccaggio non ce n'è problema. Per fare il bloccaggio non ce n'è problema. Ti sto dicendo che appena mettiamo insieme un pochettino di pesci e un poco di raccorderia, vedi che io 12 metri te li faccio, perché guardo quali sono più di luni e la direzione te ne voglio, forse te ne voglio pure ancora di più. Adesso vediamo, lasciami mettere a parte un poco di pesci, che così poi vedo come posso sistemarti. Almeno me la smetti con questa lagna che sei coperto. Pensa che non è vero, quando a te non te ne fa una risata, te ne vai. Campagnata, tutto fuori. Sentimenti alla faccia nostra. E se non si è attaccata la cura della birra. Chisu è già in preventivo. Ma che gli avrei di poco gli ha dato una verretta. Sei un ubriacone tragico. E sono tu. A Concamuru. Adesso l'ho fatto tutto, visto hai? E così dopo se ne vanno via, c'è il ferro e poi se ne va via. Anche se va via di tanto, ma non è fregato, peggio. Se va via anche là? Anche internet, perché io vado a te, ho stato lì, ci sono i circoli, iscritti, tutto c'è. Ho detto guarda, tac, mi infilo, bevo 1,50 alla birra, poi esco fuori. Ma dove fa internet? Sì, sono i circoli iscritti. Sei fuso, sì, che. No, si può fuso la mela, vedi, scrittando, vedi, che ci sono, aspetta, ecco, 2 minuti. Ciao, Luca. Beh, ti su Mario, bubu. Nulla, eh? Lascialo, lasciamo a parte il peggio, Luca. Dai, non c'è un problema. Ma niente, ok, tu? Oh, signore, questo pomponio, ok? Oh signore mio benedetto e me ne fuori benedetto abbonato Nacchi poi attento Radio Vela se ascolti sta mia cavao dopo rogio ascoltiamo il notarino al foruno come Forte chiasso, a chi? E chiami il doppio rumo, non si è sentito, Bruglia. Eccolo qua, buonasera, buonasera. Ecco il Gianni doppio rumo che stava caricando tutta l'acqua, cava cava. E da, oggi stavo mangiando la fava dei bisari. Cazzino, giù. Mi sono trattenuto un po' di più. Sei un fuoco umane. Che bagata. E beh, si sente l'eco già. Va, per me, Natali, un consiglio lo vuoi, aumentalo appena che esci più meglio. Ci mi è arrivato a baciare. Sì, ci vedi, ci meglio. Così bene va. No, questo è il reverbero, non è. E così guarda un po'. Cappa. Così bene va. Abbassa un tantino. Guarda un po'. Questo è forte e chiaro. Caro, lo lascio così allora, caro. Però di notte è un po' da fastidio con le cuffie. È un bel po' tempo. E allora te l'ho tolto. Cavagava. No, aspetta, basso io. Aspetta, non c'è problema. Tanto devo abbassare per Pierpaolo. No, vabbè, non me ne frega niente, da, lo metto così per fare una spacconata. È chiaro, come sempre, Mario. Lattari, io dico la verità. Quando ti ho messo l'eco, che ero giù a Polo Torres, avevo una radio amplificata a forte, poi come l'ha passata ti sentivo molto più basso. Ti dava anche l'effetto di amplificazione quando hai messo l'eco. Prego. Un attimo, perché. Ma il microfono. Con quello, anche con quello normale. E questo è quello normale. Figurati, siete buono amplificati. Va benissimo anche questo qua, è come la tariffa. Io lo sapevo già che era. Perché l'amplificazione te l'ha letto. Vabbè, io saluto tutti cordialmente. K. Senza dimenticare nessuno, rilascio tutto quanto a Mario. Non ho sentito. È tornato oggi, come mai? È tornato in Tracumuccio, doveva andare a prendere la moglie, l'ho sentito io. Ha detto che già entrava più tardi quando rincontrava. Comunque c'è il break di quel carissimo amico di Falchetto. Avanti, Falchetto. Ciampa, sto uscendo adesso in radio, ce l'ho buttato tutto. No, sto uscendo. Già stai uscendo, se ti sono chiuso i miei, se ti sono corrispondenti, vuol dire che ti intendono. Chi la dura la vince. Aspetta, io sono contento, e a me come mi ascoltate ora? Una bomba. Una bomba? Ehi, quasi per esplodere, sta. Vabbè, speriamo che non esploda. Ecco, ce n'è Gianni. No, ecco, no. E così? No. Come no? Ci dovrebbe essere l'eccola. Cosa stai usando, Mario? Ti sento un eco con le saletta. Adesso si sente un po'. L'hai tirato sulla levetta, sì. No, senta tirare la levetta, la microfono. Mario. Eia. E acqua sto cucinando, subito non può andare oggi. Ci siamo fatto qua. Ah, d'accordo. A dopo, a fratelli. E va bene, Gianni. Cappa. Prova invece a chiudere l'eco di quello lì e mettere quello del Saturn Echo. Questo qua, così, come lo hai preso. Mi piace più questo. Più bellino? Cappa, ti fa la voce più chiara e più... Sono contento. Gabba gabba. La radio la sente di più? E la radio è più spinta l'altra, forse, è la verità, però è spinta anche questa. Gabba gabba, andrà bene. Insomma, oggi tutti col sacco si sente. E allora, Gabba gabba, là. Diversi microfoni è uguale di apparecchi. Quando metto l'MP4 è tremendo, Perché probabilmente Pompeo gli ha fatto anche la recille. C'è il mio originale. Anche il mio originale. Io così. Io ho comprato quel microfono Midland. Ma lo sai che c'ha anche il capo più morbido? Non è tutto come se il GTE. Vabbè, vabbè. Io non vi lascio tu. Lascio ciambato, ma... Tu devi mettere il BMW 1000 lì. E va la grande, Natalina. Ma cosa mi napputo? Tanto fa... Ma non ti sono rudrato. Vabbè, io ti sto dando così, pure. Fai come vuoi. Avanti, Mario. Thank you. cioè ci penso io a modificarlo, se lo sai. Quando vengo lì, te lo modifico e te lo faccio come si deve. Sì, che bellino! Sì, per schiattare Natalino. La vecchiaia nel casino che passi. Ti parlato un cammino di sì, Natalino. Ma c'è un paio di giorni che non sento più a Roberto Quadrato. Vabbè, dopo quello che ha combinato l'altro giorno si è offeso senz'altro. È entrato con Capri 2, cominciando a fargli modificare tutto, evidentemente ha scolpato e si è offeso. Sarà così senz'altro. Friggio, da un minuto per catturare, io non so più cosa fare qua in questa... C'ho un come si chiama, guarda, di... Avevo in mente di pigliare la parete che potesse andare la finestra del coso, del balcone qua, perché non è possibile. Mi sta facendo schiattare questo qua, no? Questa cosa qua, adesso guarda, se cosa faccio? Adesso... Ti faccio la concessione subito subito, dopodiché faccio i buchi e faccio la mantova. È l'unica lì, lo so per dire io. Sì, sì, non è possibile stare così, no? La cosa vale la parecchio, le sfuggia di tutto, non va più, la vita non mi va più. Adesso mi faccio la concessione, faccio i buchi, quando mi chiamano i carabinieri, non si deve stare in casa, ci vuole la ricorso. Se non è che entra lui, te lo dico io. Se viene lì con i carabinieri in questa concessione, ma se ho trovato la luce in questura del tornado 34 ore ce ne avevo prima, addirittura 90, c'è scritto che c'avevo la concessione. Mi presento qui, adesso mi faceva il tornado della mia sorella, e così lui che ha peccato. E c'è quei fogli, li presenti anche qui, la legge. Tutto per quello, siccome la concessione c'era una rovata, c'è scritto così nella denuncia in questura, c'è il tornado da 4 ore, si è rovato, con i numeri, i matricoli e cose del genere, ma ora c'è la mia sorella, se no se è stata incappettata, adesso me lo incappetto io a lui, almeno ho le spalle coperte, quando viene qui lo faccio schiattare. Senti, perché tu la concessione l'originale non ce l'hai? No, non me la trovo più Mario, la verità, perché da quando ti ha bloccato la concessione non me la trovo più. E se no ho trovato la luce in questura, la verità. E quindi sono contento di quella, almeno quella vale, vabbè, la concessione vecchia ormai non serve più a niente, però da quando luce in questura vale. C'è scritto, trovato da 4 ore siamo rodato e cose del genere, amministrato PT, eccetera, eccetera. Quindi lui è fregato. Ma fai la domanda nuova di concessione e basta, paga e c'è in regola. Appunto, ma la luce in questura c'è nulla già, da 90 ce l'ho, figurati, denunciato con l'apparecchio in questura. Tu lo hai fregato. Puoi tenere qualsiasi apparecchio purché omologato con le nuove leggi. Molto ci vuole. Vai alla concessione e ti pone un qualsiasi apparecchio omologato, non ce ne vuole più denuncia. Io già faccio così, poi la tariglia la faccio schiattare a lui. Faccio i buchi nuovi, me la futti nulla a me, a spese sue. Ma se poi lui ti rompe le palle, lo denunci perché te ne ha staccato l'antenna senza permesso. Dico per quello. Bianco, secondo che sto cucinando le patatine, se no mi piglia un fuoco qua. D'accordo. Che Pierpaolo, avanti. D'accordo. E io... Riprendi, lo sappiamo che ci sei. C'è Farchito. E non sentito Farchito. Comunque io non sono tanto poco fa. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, ben entrato. Avete mai vedato il tuo pare? Beh, tu salutato per fa. Tutto in greppa. Senti, Naime, c'è fuori frequenza. Ce ne so solo. Issimo! C'è il vetrino buono? E allora, non riprende nessuno, va bene. E allora, vera, poi ci dice nessuno, lei, contento sì. Senti, io non so, io non l'ho giudizio. Oh, ma come ti posso avere una venera? Però non vuoi, dal fatto si sempre mi segnete. Ce la riprenda. Adesso sempre il galaxy c'hai. via. Kappa, come ti arrivo col mio Galaxy? Sono al buio, non lo vedo bene. Non è illuminato lo strumento. Sì, ma c'è una luce del cavo. No, qua si fa sempre. C'è una luce del cavo lo strumento, capito? Si vede più quello di trasmissione, ma quello di ricezione si vede di meno. Gala. No, comunque già va bene. Quanti watt costa l'anno? L'hai misurata? No, negativo. Una decina appeso. 9, 10 modulazioni. Dovrebbe essere così. Infatti, una decina me la non di più. Si vede anche dallo smitter, te lo so. Lo so, ma bisogna vedere se è attendibile. Capito. Come è preciso lo strumento? Invece questo no. Questo sta segnando di meno. Cava. Adesso che c'è già il dottor Rodes, perché lui c'è il Galaxy. Fate spiegare come si controlla la stazione del strumento di sì. Hai usato? Non l'ho mai usato perché ce l'ho esterno. No, perché Natalino stava chiedendo a me, io gli ho detto e non c'è manco il coso del manuale. C'è SVR comunque, il tasto, penso che si clicchi quello lì. Ma non funziona, lo. Non l'ho mai usato sinceramente, mai, perché non mi ho mai preso manco la briga, perché ce l'ho esterno e non controllo quello. Anche i watt solitamente li controlli, però un giorno mi sono preso la briga, guardate, di misura uguali identici allo strumento esterno. No, invece il mio sale fino a... no, andiamo alla Suzuki. Quanto? 10 watt da là. Vagava. Vabbè, più o meno è quello, Mi ha regolato così, 21 manda laterale e 10 manda normale, anche perché poi non ce la fa lo strumento a reggere il coso, come si chiama, il trasformatore. Ho capito. Ma va bene così, dai, per modulare in città va bene. E in città anche a fare di ex va bene. Sì, infatti. Ma capo, fa quanto? Io, siamo qua. Lo so che sei qua. Allora stasera sei uscito di capo con questo microfono. Passa le dai, capo. Insomma, mi ha modulato tutto a figlia da poi. Vuol dire che quando sarà metteremo a posto. Cioè sei con la prolunga? Non è cattivo, sono con l'altro microfono che ti ho detto. È normale, l'ho sfidato suo e ciccia. Ma ce l'ha fatta poi a piazzarlo così lo spino? Già. Ce l'ha fatta a piazzarlo nell'ala, nello spino? Sì, l'ho piazzato, però non mi piace il microfono. Ma non ti piace? Non mi piace, sta uscendo male già, c'è qualcosa che bisogna controllare, non testere, perché non sta uscendo, se esce un fischio. Col fischio, paga. Probabilmente innesca un po'. Kappa. Adesso mi avvicino al sottempo a Pompulio e faccio controllare. Per parte l'ha detto, c'è quelle connessioni balorde AX in cruccio. Quelle lì vorrebbe messo un microfono normale di ala, un microfono normale dell'ala. Poi dall'interno staccare i fili con le gambe, man mano che si sente la portante, e cosa saldare? E così ti fa l'attacco per là. Infatti, e così farò. Sì, almeno una volta ci attacco là, vanno tutti bene, perché questi tutti li fanno con questo attacco qua. No, mi ha fatto via la zaddita, ma mamma, ha volato tutto via. Tutto male che va con l'attacco dell'ala, c'è un altro apparecchio nell'inverti, quelli sopra vanno sotto e quelli sotto sopra, tutto lì. E infatti. Mirfa. Via, saremo a quella 87, non è così già, eh. L'87 non è per esempio come la 48, le connessioni. Ci sono diverse, come tutti, per esempio come il Superstar, come ce l'aveva questo in più. Adesso questo sarà come la 48. Però quello lì no, quello lì nasce già invertito. Ho capito. Vabbè, c'è tutto male che vada, di rifarsi, però non mai a croce, che deve scendere il gambo, c'è il Ma lui lo sa com'era, l'ho già visto. Ma che microfono è? Forse. Aspetta, te lo dico. M93. Sella. Ah, quello di Luigi, quello che c'ha anche Luigi, quello normale. Quello dell'altro giorno. Bravo, bravo, quello che ha portato l'altro giorno. E me non ci deve fare lì. Non sta più uscendo. Non sta più uscendo? E per quale motivo? Perché forse ho invertito. Perché io lo volevo senza quel pezzo di cappetto, capito? Volevo provarlo senza il pezzo di cappetto che mi ha fatto Luigi. E invece non esce. Se ti ho fatto fare la prolunga per averlo con la prolunga, scusa. Sì, infatti. Io ho fatto mezzo casino e niente, adesso non esce. Se l'hai toccato, devo credere che non esce. Ma io sono buono, non l'avevo impiegato per attaccarlo al multi come cosa, come la si chiama Edo. Sì, no, ma me l'aveva fatto due spezzoni, uno per l'Alan e l'altro per i mobili. Se adesso tu hai toccato la connessione, non va più né in uno né nell'altro. Chiama, si conferma. Adesso quello lì bisogna riportarlo all'origine. Appa. Che è la gara. Anche non me l'hai detto domenica. Vabbè. Comunque bisogna portare, secondo me bisogna portare l'apparato, non c'è un cazzo da fare, cioè porti l'apparato e mettere le condizioni giuste all'apparato. Capo, io adesso ce li ho questo, sia di questo che dell'altro sono invertito come la 48, quindi non te lo posso neanche fare, ma poi quello c'era quel problema della croce, hai capito? Infatti, mi appare, quello è il casino, capito? Ora che si può fare tutto, dai. Tutto si può fare. E cappa, cappa, cappa. Ma perché l'hai toccato? Perché quando uno non sa cosa fare, no, capito? Immagina a me, cavolo. Adesso tu sai cosa fai. Tanto tu devi riuscire con la preficcata. Lo prendi a me. Allora, me non voglio gratis, voglio grammi. No, è quello. Se lo tengo di scorta, vai. Come vuoi. Gappa, gappa, gappa. Ma vuoi cambiare di quello un DM1000? Allora ci siamo. Sai, mi taglio. Già, e ti dai, allora ci sto. Mi chiama Marco. Mario. Sì. Prenditi il microfono. Che invece a Roma vi fa vedi, a 30 lo baracchino non abbia, mi dice bene. Lui sotto la strada, c'ha un po' di svolgere, non so se c'ha maiali, e c'è una stradina, lui stato un punto. Sì, sicuramente già è sicuramente già difficile a uscirne durante il giorno, perché la strada è, e noi dobbiamo ringraziare che la strada non era praticata, se no ci avrebbe successo una cosa molto perché cioè, quella non so come ha fatto Francesca Benedetti, mi ha dato voce fine, non so come ci ho dato, io stavo pensando a qualche animale, a qualche cosa, ah, quando io ho visto la macchina a un palmo del perché io già avevo il fagno alla pagliante, capito? Quello proprio al buio ho riuscito, la strada segnaletica non reali di cosa visiva, e mi ha andata bene, domani già lo vedo di persona, perché ricordo quell'altra volta, quando era appena alzato con questa, aveva investito a Claudio, e mi ha fatto appena appena qualche scurilazione nella gamba, il giorno non ero a muro, se no però era un visto lui. Ma è sempre così questo, era ubriaco, non lo so. Meglio che sia andata così, a parte di Pierpaolo. Mi doveva capitare un camion, 8-3. C'è la gatta su giù, mi prendi Pierpaolo. Calma, calma. La calma ci vuole in questi casi, No, io in questi casi ho sempre la calma. Quando succede così, io vorrei essere là per poco, prendo il ciclo, mi accorgo di più a capo. E no, io volevo andare a Sassa, il cavallo di Cine, sono rientrato fino a Moresini quasi. E stavamo fino in mondo, andiamo stasera o domani mattina, mi metto a lavorare con la televisione, è piccola per metterla in camera, perché ce l'ho e ce l'ho fatta ed è vecchia, una piccolina, invece sono uno di quelli a schermo, adesso via, vabbè. Abbiamo deciso e siamo partiti. Come sono localizzato questo imbecille, come ti stavo dicendo, Pierpaolo? È stata una fortuna, guarda che ci aveva una meno 19 lui, di quelle già conoscenze, la macchina. Niente, io non l'ho vista perché ero uscito al buio, mentre io stavo per arrivare in un attimo, e mia moglie che mi ha dato coso, mi ha gridato di riprendere, se no ce l'ho andato, l'avrei ammazzato perché cioè, stavo scendendo che ero vicino ai limiti, io stavo anche camminando più di 50 all'ora lì. Capo, non ricordi già quello che volevo entrare nel garage, e mi ha detto che lo prendeva e magari poi in faccia di nostre macchine, ma te sicuramente. Ehi. Se io mi ricordo che te l'avrei distrutto. Quando siamo andati con Natalino, stavo girando in quella rotonda della strada che c'è vicino a casa, questo qui ci è uscito, è andato contro senso addirittura, per poco non ci prende in piedi. Penso per quello, l'hanno fatto anche oggi, dritto dritto, lo stop, manco gliela da mai darsi, nunca, mi sono passato a 20 centimetri dalla piantata. Casino, è un casino, bisogna stare anche attenti agli altri che a te stesso. Mario, avanti, anche tu guidi, quindi già risai, si cosa. Sai che è andato a mangiare, mi? Mangiare è andato, non ho sentito. Cap. Vabbè, c'è Natalino anche, là, che si salutano, è Falchetto che devono salutare a capo. Avanti Natalino. Yeah. Io faccio quel ritirare, perché mi si stanno chiudendo gli occhi. Vi ascolto un po' finché ce la faccio e poi spengo. Salutoni a tutti. Faccia la televo corretti, dai, avanti. Ok. Capa, salutoni Natalino, comunque ripetito. Salutoni Gianni, salutoni ben entrato. Ok, ciao Anto, buonasera, anche a te. Mi hai sentito, io con Natalino mi sono sentito 3 o 4 volte, mi sono sentito la sera, così, e niente. Giuseppe non si è sentito stasera. Ha detto che entrava più tardi, ma probabilmente ho avuto da fare, ora stanco morto e si è curicato. Credo che andava giusto stamattina a Cagliari, ho sentito di sera che devo andare a Cagliari, fare un po' di giretti, di alzi a San Luis, prima poi dovrà scaricare, ricaricare, e comunque verso Giugia quasi che sia stanco, un po' lasi che anche più tardi niente si faccia la chiacchieratina. toccare per niente. Non tocco più nulla perché se scasso questo l'oleolato, no, non l'ho scassato, ma mi sono rotto le scatole, ho pigliato dal campo di guardi modificare il 46, il 4, per lasciare l'originale, io ho saccato in macchina a tavola, l'ho messo nella la 78 e qui ci sono 400 canali, già mi va bene, no? Non pretendo la moto, l'importante è sentirci, però ci avevo dato un problemino. Qui c'era un innesco, signori miei, perché c'era il cavo dell'RG8 che non faceva contatto la massa, l'avevo levato, l'ho saltato, capito, dietro con lo staglio e attaccato. Ed è quello di innesco, perché adesso la cosa stasera. Ma del microfono o dell'RG8? Dell'RG8, già, di quello di antenna. Capito, io molte volte quel capo lì quando li faccio, salto solo il come si chiama, e faccio entrare apposta la carta, e si vede che quella carta non è entrata apposta, e quindi c'era, e me ne sono accorto la menacente che tendeva a aumentare, che non era più così come quando modulavo prima il segnale del... E poi sentivo, e la cabina ha detto, guarda i capi del... E così ho fatto, ed era così. KK, meglio che ce la salosità. E si intenna quando l'alzavo su. Mi lascia a valigia, lasciami respirare come appena. Che ora si chiede la ola, lo usa pure. Ah, no, c'è la limite, già va bene, è abbastanza alto. La pace da voi non ti intenda, la signori osso. Non vuole. Sì, sai che ho speso una barca di soldi, non so per io, l'ho capito. E me devo anche conservare, ho gli olimpici da pagare, devo conservare i soldi per il vento, già. Hai capito, perché non sai che a me mi tassano poi a fine anno dal fatturato. Pago il 20%, sono come contribuenti minimi, e capito, vogliono le parti, quelli per il saldo e poi quelli per la cosa che si mano, quindi devo stare attento a giocarmi i soldi, perché sono sempre quelli, come che io già c'ho un coso, una borsa con tutti i soldi dentro, quando finiscono ne ho altri. E come tutti da qui là. Sì, vabbè, ma un tubo già non costa chissà quanto, Un tubo è 4 tiranti, cosa vuoi che costa? Se 4 tiranti sono più di giro, un tubo quanto costa? Un tubo è 6 litri, ma io voglio pigliare l'antenna, non hai capito, vuol pigliare la lampo, già. Tu perché non mi hai dato retta all'inizio? Perché poi io uso questa roba e c'è un lavoro indifferente, ma poi non sai quanto me ne sono pentito. L'avrei comprata, l'avrei tenuta dentro la busta, mi avrei preparato tutto il sistema, già era stato un bon bon. Vabbè, se non sbaglio che fanno un po' tutti, di solito i principianti, Tutti dalla fretta a volte ci fanno prendere, ci facciamo prendere i punti, anch'io compreso, magari tante volte fai prendere la fretta e sbagli. E vabbè, non è uno sbaglio grosso, perché l'antenna va bene, io scommetto che se tu la sollevi con l'antenna una volta. Sì, ma con l'altra che va a 5 ottavi va ancora meglio già, migliorerebbe la ricezione, anche la trasmissione con questa roba che c'ho sotto, hai capito? Comunque, cosa un po' cosa mi ha ascoltato all'Alghero stasera. Anche a me, da Porto Torres. Quindi già, se figurati se la sollevo con l'antenna che sto dicendo, io la prendo già, ormai me ne messo in testa, però con tutti i criteri vuole dire la casa è fatta bene, adesso creiamo che come mantiene il tempo la prendo. Appaga. Questa la conservo da qualche parte. Quella te la lasci sul tetto lo stesso, te la usi come seconda antenna, se va male uno usi l'altro. Io non so cosa faccio già, me la modifico gira con qualche carica allo stilo centrale, le levo i radiali, e allo stilo centrale, siccome quello è tipo alluminio la roba. si conferma. Va bene, dai, io vi saluto perché domani si trabacca. Banchetto, chiudo le trasmissioni, dai, ce la riascoltiamo tutte alle prossime. Ciao Gianni, ciao Gianni, l'altro, ciao Vela, ciao Mario e ciao a tutti gli ascoltori. Banchetto QRT, ciao ciao. Ciao Falche, dai, buon corretti, scendiamo, avanti più di... Ciao Falche, ciao, buonanotte, te lo ascoltiamo domani, dai. C'è Antonio, comunque, avanti Antonio. Thank you. sono quegli altri che non li compro, quelli di fondale, quelli non mi piacciono. Mia moglie sono a portarli, non è che non li vuole lì proprio. E lì qualche volta li compro quelli che passano con camion, è una cosa spropositata già, le sardine al periodo le vendeva a 7 euro già, ed erano già passate di un paio di giorni, invece io quando vado a comprare se vanno da 100 alla pescheria che vado, le pago qualche volta a 6 euro, però capito, c'è la presenza del pesce che è fresco, molte volte è freddo, ma riconosce, monta la mano e le vende ancora sempre a quel prezzo lì, e niente, invece bisogna stare anche molto attenti, perché se no si prendono anche delle intossicazioni. Ripeti che fa? Basta fare come me, non le compro mai perché non mi piace, e così non, vabbè, non è detto se non piace a me, però se tutti fossero come me, allora il prezzo l'avrebbe abbassato. Io non mi fai tanto per cambiare, perché stamattina sono stato anche in macelleria, ho pigliato la carne, però sempre carne, non sono mangione, io alterno le cose, c'è l'elettronica, tutte queste cose che ci vanno in giusto. Poi c'è mio figlio Claudio, che è piccolo, diciamo, più, già 16 anni deve compiere quest'anno, e niente, lì bisogna fare i corsi, diciamo, i piatti, diciamo, separati, perché non mangiano molte volte quello che mangiamo noi, perché sono stati abituati nella moderna, lui lo stesso, a casa io eravamo mamma, papà e io e mia sorella, eravamo i quattro, però la pentola era quella, Pierpa, sì, ma quello che mangiava uno mangiava l'altro, invece adesso non è così, adesso diciamo pretendono, hai capito, di fare anche una cosa separata e magari sono delle fesserie, a me tipo c'è un piccino, quando vedo che mangia quella roba, questo è un porcherio, che ci vuole il brodo, ci vuole tutte le cose che hanno le proteine giuste, che fanno bene, la roba fritta non è che molto indicata per il fegato, di verità. Scappa Mario, un attimino sola. Ma già, sembra che stai rispecchiando il carattere di mia figlia. Lei non mangia carne, se cavallo non le vuole, se mangia non le vuole, non mangia pesce, mangia solo i pasticci, sofficini, spinacine, queste cazzate qua. Non le mangia altra roba, di secondo. Non le piace né la carne, il pesce, poi animalista e non le vuole sapere. Lo so già, però diciamo l'alimentazione corretta è molto utile, io la sto facendo adesso, però anche io molte volte da ragazzo ero disordinato, ma non a casa è già, non a casa che mangiamo, quando andavo a lavorare che ho l'impresa, ogni giorno sempre panino imbottito col salame, capito, per fare una cosa, e mamma ti preparo il coso per portare dispiace che non ho potuto salutare anche proprio la bocca piena a Parchetto quando è andato via. Va bene, pazienza, vuol dire che ci scuserà, ma purtroppo mangiando non si risponde alla parata. Gappa gappa, riprendi Vela. Sì, gappa gappa. No, io già mangio, ma con me il pesce non mi va. Gappa, a me il pesce non mi va. Però del resto già mangio tutto. Mi oggi mi sono fatto un bel piatto in porta di tutti. Fai il cincomma, pare. No, vabbè, ma ci provo il resto. può entrare a salutare. Buonasera a tutti, non do per la questa, ciao Pierpaolo, non ho fatto ascolto, ho sentito solo a Capri 2 e basta. Ciao Massimiliano. Ciao Gianni, buonasera. Punture che mi dovevano fare, infiltrazioni, i dolori mi sono scomparsi totalmente. Già va bene, dai, già va bene. Un saluto a tutti comunque, dai, a quelli che ci stanno ascoltando. Comunque c'è questo rumore sottofondo che non è la voce di Daniela, ma è è il frigo, un piccolo ronzio senti sottofondo, è possibile. Poi questo microfono è molto sensibile, dunque si sente tutto. Non penso che sia, non è un ronzio, è proprio un rumore di innesco. Di innesco? Prova a abbassare la portata senza parlare. Vediamo un po'. Hai sentito tu? È un innesco piccolino già sotto. Continuo. Poi apro l'innesco. Sì. Avanti per pa. E mette in mano. E mette in mano. E mette in mano. E mette in mano. E mette in mano. E mette in mano. E mette in mano. E mette in microfono. Non funziona bene con me questo microfono. Solamente il massimiliano funziona bene, la voce più piena. No, come sei tu in piedi? Eia, sì, in piedi. Così va bene, così va meglio. Mamma mia, se le mettete nella stessa posizione che si mette Massimiliano lì. Così come si sente? Perché la tonalità era proprio al massimo. Adesso non c'era. Adesso va bene, va meglio adesso, 1-2, 1-2. Adesso va bene, loro che fanno una tonalità che parlano di te nel tempo. E ora come va? 1, 2, 3. E già va bene, è importante non è l'inizio. Andavo lì. Allora, raccontaci la tua del collo, è bello. E cosa vuoi dire, mi racconti? Sempre le solite cose. Aria di crisi. E si va avanti piano piano. Lo sai per qua. Esatto, piano piano, è sempre andato, ma l'acchio non è più acceso. E ogni tanto l'accendo, mi ascolto, ma sai che è un mio lavoro, devo stare sempre attento. Già lo so, se non si mette in fallo, te ne brucia. Se non funzionano, mio padre. Capri lui, lo senti a Gavrino, la Sassari. A Gavrino, povero, Gavrino, buonasera, qui da Capri lui, da Muroschi, di Super Saluta. Ti ascolto, Gavrino, ti ascolto e ti ringrazio mantenna. Grazie, anch'io ti ascolto abbastanza bene. Un saluto a tutti comunque, anche per quelli che non ho sentito ancora. C'è cosa, immagino che hai sentito che c'è Mario Manser, c'è la liquida, diciamo, non ce ne sono molti stasera, capi? Stanno tutti mangiando adesso. Ho mangiato tardi, con poco nella prigione. Mario, riprendi! Eia, buonasera. Ben sentito, più che mangiando adesso stanno dormendo, ce ne sono molti che sono stanchi e domani si lavora e allora hanno preferito andarsene a nanna, hanno detto che nel 144 sono stati bene, al calduccio e via, gappa, riprendi vela. Qualcuno è andato a mangiare, qualcuno è andato a riposare, qualcuno con qualche palata vicino, però già ne so che io. Massimiliano, tu non te la sai. Massimiliano sta ordinando dentro, è un attimo Sopra, ma quindi però perché? Perché se mi dormo troppo presto, poi come hai detto tu, alle due sorriso e mi sto a cantare in giro per la casa, perché se no io più tardi dormo e più tardi mi sveglio, però anche stamattina alle 4:30 ho acceso l'apparato, mi sono fatto la chiacchierata con Vulcano, con Gippone, con Falchetto e così via. Parlando, a me mi ha fatto il dottor Colino. comunicato lui e dal giorno è iniziata l'avventura sulla 26. Eravamo tutti fuori legge per fare, perché erano vietati che erano queste cose. Già lo so. Prima non c'era manco la licenza che sta accettata, sì. Da vedo 70 io ci sono qualche anno dopo vai ci ho coordinato ma non ricordo come ma c'è il ferro te lo ricordi ti ricordo il resto di a pugno di ferro anche mi ricordo dalla Sinana 13 parlavo alla Sinana e c'era un sacco parlavo con Monforte che era il direttore il vice direttore del Lazio di Sassari. Tanti altri che poi all'Aquila Rossa c'era Paolo Rosso, proprio vecchi Palpateratro, Achille, Macalè, tutti li hai conosciuti anche quelli. Capo, li ho conosciuti a Luglia. Era un mezzo, sicuramente tutti, però una volta qualcuno mi viene ancora in mente, me ne conto. Insomma, non se ne pensano, portatevi tutti. No, la fa per contentezza, capito, Pierpa? Perché il gatto è contento e quindi inizia a scazziare da una camera all'altra. Ma ti sto dicendo che Stivalina sgomma proprio, capito, nelle mattonelle c'è un fuoco, perché non attaccano i tacchetti da quanto sgomma. Poi arriva sopra il tappeto e si lancia, capito, a tipo lo sci, no? Come che lei c'ha gli sci sotto. Cazzo, parte a manetta, si ferma sopra il tappeto e poi giustamente scivola insieme al tappeto, infatti rubate a montone, rubate il tappeto. Beh, guarda, è micidiale, è la contentezza del gatto, dai, il carattere del gatto è così. Gava, gava. Ok, riprendi, dai, campi due. Ok, ma si vede anche a me piace, a me. Io non ne ho adesso perché ce li avevo scesi da mamma. Perché abito nella via centrale, hai capito? E da quando avevo ammazzato il cagnolino, il camion dalla porta, guarda. Però gli ho avuto, guarda, bellissimi i gatti, bellissimi, tenuti in conto, guarda, che proprio le davo affetto come una persona, solo che qui è impossibile, la casa non è molto grande, è piccola. Il gatto ha bisogno anche della sua libertà, di un pezzo di cortile di uscire, quindi l'ho portato la mamma e poi di un po' l'hanno fatto, perché era di quelli persiani col più lungo, guarda, e da giorno basta con gli animali. Quindi Mario. No, io ne avevo due che dormivano al locale. E poi sono spariti, hanno saltato le veste durante la notte e non li ho più trovati, ed era un siamese e un persiano. E niente. Dopodiché gatti più nulla. E adesso ho un cagnolino, un volpino, che è un rompiscatole. E niente. E avevo detto che gli animali non ne volevo più, ma non perché non mi piacciono, no, perché lasciano il pelo, lasciano il coso ed è un casino a pulire, perché io purtroppo a casa non ci sto e niente, donna di pulizie non ne ho. E così che hanno messo a campare a me, io so che sacco specialmente mi si idari a chi quando arriva a casa si sa che non hai gana di battuta. Allora, detto questo, io vi saluto perché sono già le 10:30 e inizio a prepararmi col pigiamino, andarmene nel 144 e niente, ci sentiamo tutta le prossime, salutoni a tutti. E buon proseguo di serata, là, ce la riascoltiamo alle prossime. Capo Mario, buonanotte, ce la riascoltiamo tutta domani, come volete solo una cosa, sei sicuro che abbiamo affrontato questi gatti? Io si lascia mai adrucare invece. Ciao, buonanotte, vai Caprio per i saluti. Ciao Mario, buon cuore rettivo, 144, buon trattacco per domani, buon tutto, e ci vediamo domani se Dio vuole, e io già sono sempre qui, a me fa sempre piacere chiacchierare, e ti mando avanti Massimiliano per i saluti, ti vede Massimiliano. Ma Roger, là, ciao Mario, buonanotte, bellissimo ascoltato, vai mettiti il pigiamone, che non ci stanno problemi, dai. A domani se coincide, se no per il proseguo, buonanotte e ce la riascoltiamo, ciao ciao. Riprendi, chi c'è ancora? Gianni, Antonio, Pierpaolo, illuminami un po' perché non so chi c'è. Mi senti sovrappopolati. Antonio, vai per i saluti a Mario. Ciao a tutti, buon proseguo. Ciao ciao. Allora, sento discretamente bene, ma questo mi sembra più l'87. No, no, no, non è l'87. Sicuro? Sicuro, sicuro, come mi chiamo Pierpaolo. E allora, qua da casa l'ascolto uguale all'87. Oh, ti ricordo che c'è lo stesso microfono, comunque. Beh, Pierpa, io ti sto dicendo quello che sento. Dalla macchina mi sembra più squillante l'87, anche forse lontanata, cosa dice pure. Però da qua da casa mi sembrano uguali, non cambia più di tanto. No, ma se vedi a quello ti ho ragione, funzionano meglio in macchina, perché è anche molto caro, ma sono accorto io. Il rendimento che erano a casa, queste macchine non ci muoto e macchine rendono di più, eh. Hai ascoltato bene perché è vero, io lo sento molto, molto, molto più sul posto quando sono in macchina. Io te lo sto dicendo perché, Pierpa, se lo stesso baracchino c'ha, allora, così da casa mi sembra la stessa modulazione dell'87, non cambia una virgola. Io però ti ho ascoltato stasera dalla vettura ed è tutta un'altra cosa. Allora, intanto c'è la voce più chiara e più acuta e più squillante dal motocarro, capito Pierpa? Da casa, infatti per quello che ti ho detto, sto usando l'87 perché sono uguali di modulazione, così ho sentito, così sento, non è che ti sto dicendo una frottola, capito? Però dalla macchina ti dico che è tutto un altro paio di maniche. No, no, no, no, quello c'è ragione, mi sono accorto anch'io che in vettura e motocarro funzionano molto, molto, c'è una diversità, è molto diversa, la modulazione è molto diversa, a casa sono diversi tutti e due. Comunque questo non ci sto fregando, già il iPhone 2. Se non mi basta parlare, tanto la voce tua, capisci la tua, ti faccio il filmativo e te lo faccio vedere, non ci sono problemi. Non c'è il problema Pierpa, allora io ti ripeto che così ascoltandoti in cuffia sembrano gli stessi baracchini, precisi identici, uguale, hanno la stessa modulazione, però cazzo quando stasera era in motocarro era tutto la sua pace dei manichi, eh? C'erano i picchi più alti in macchina, c'erano i picchi più alti. Quello me ne sono accorto anch'io, l'87 spinge molto, molto di più quando è in macchina, come un cazzo da bravo. Rendi conto che comunque adesso qua, vabbè, stiamo andando con un'antenna che è un quarto d'onda, mentre invece siamo con i 50 anni, può dipendere anche da quello, perché la modulazione di 50 anni è certamente che migliore un quarto d'ora, però diciamo che io sento anche di divulgare quando lui parla a casa, non sono così come quando c'è il camion. Pierpa, te la posso dire una cosa, allora questi apparecchi così modificati da casa escono bene quando li attacchi la scarpetta, escono bene. Però se tu li ascolti dalla macchina o dal motocarro e cosa, dal camion, no, non c'è paragone, guarda, io me ne sono accorto, se io il mio lo metto qua a casa, gira in una maniera, lo pongo in macchina, è tutta un'altra musica. Infatti, ma sono fatti così appositamente, no, ma lo dice anche il Gigi comunque. Per esempio, anche quel 2001 che c'è, io ho sentito anche a poca distanza, sia dal camion che da casa. A casa non mi sembra che Gigi così molto. Sento l'eco anche molto veloce, io quando lo sento, invece quando ho sentito il camion, cambia tutto. Cambia anche l'eco. E quindi sono fatti così, no. Sinceramente, la programmazione che hanno, anche il tuo, comunque io sento meglio tirare in macchina. Io infatti Pierpa, quello rimarrà fisso lì, da casa uso questo, capito? Da casa mi piace più questo qua, magari d'estate quando c'è la propagazione ti diverti più con quello, però così nel QSO così mi piace più usare questo qua là. E sono sicuro che facendo questo qua, Gigi ha detto che non esce molto bene questo, però sono sicuro che facendolo così come l'hai fatto tu, questo esce una bomba pure. Sì, uscirà così come uscirà questo, all'incirca no, cioè, perché non è male, no? Ma no, quello lì è uscito alla grande, è uscito alla grande Pierpa. No, niente da dire, cazzo, una bellissima radio, a voglia. Eppure tutti mi stanno dicendo che adesso esce meglio questo che quello là, bro. Dice che è più chiaro, ecco la voce non è chiara. La gelosia mi fa impazzire. Ah, boh, non insomma, io. Io mi sono calcolato e mi pare che circa la montezza. Forse anche se la montezza mi troppo, che si può volare. Poi si mira, il cazzo non si mira nulla. Facciamo riprendere a Capri 2, Capri 2, avanti. Ok, a me mi ha meravigliato quello che c'ha in macchina, Massimiliano, quello si chiama apparato, quello che ho sentito l'altro giorno dalla paramobile. Massimiliano, quello guarda, adesso perché ha avuto spesso, non me l'ha ripreso, quello si chiama apparato. Quello Capri 2, non perché ce l'ho io, però... intanto vabbè di quel 48 non ne fanno più, la persona che l'ha fatto bene, che poi è la stessa che, di quello che ha fatto a Pierpaolo e tutto, però il 48 c'hanno un modulatore che si lascia desiderare, tu puoi ci puoi mettere qualsiasi birichino vicino, no? Come modulatore che c'ha il 48 secondo me ce ne sono pochi in giro. Io già ce l'avevo l'autovia, l'autovia all'epoca, no, volete tre volte non avevo acceso, perché era nato Claudio, non ne accendevo più, hai capito, perché già non dormivamo che avevo avviato il giorno per la notte, eravamo tre mesi, la notte sempre in piedi, una che ne avevo voglia e poi si è attaccato il marito di mia cugina che lo voleva, io pensando più in là poi di tornarmelo a comprare, invece adesso quelli che ci sono non sono uguali. No, neanche a paragone, non perché ce l'ho io, però perché lo dice tanta gente, neanche a paragone. Tu mi dirai, guarda, già, il 48 prendono colpi, perché prendono colpi e tutto quello che ti pare ti piace, però quando c'è la modulazione il 48 non ce n'è per nessuno, e questo te lo può garantire chiunque. Me lo posso immaginare, ma io una volta, siccome ancora non, quando l'ho comprato non avevamo il cellulare, mia moglie era stata interessante. Mi vuole, mi chiami perché ho in macchina, ero andato lì, che c'era un collega di papo, stava tagliando legna, e sto tenendo un po' già sui piedi che te la porti qui. E ho andato, non c'è bisogno, mi chiami alla radio, beh, non ho avuto bisogno, però l'ho chiamata io a prendere, e ho volato dalla 48 perché dico, ci aveva questa radio che era rimbombante, mi chiedo di stanza da casa, rimbombante senza essersi attaccato nulla, rimbombava che una cosa, e poi l'ho dato, ripresi che fai. Ecco, 1987, per esempio, è del 96, e questo qua è circa, è del, mi pare sia del 92. Ok, il Superstar ce l'ho avuto e l'ho regalato. Ce l'ho avuto il Superstar. All'epoca, se adesso non me lo ricordo, ce l'ho avuto in sicurezza, poi me lo guardo, dico, l'ha volato via e ce l'ho avuto a parecchi per fa. Hai capito? Trovavo un amico, io molte volte dismettevo, ne avevo tanti all'epoca, hai capito? Ed ero geloso, hai capito? Me ne interessava più di tanto. No, mi è dispiaciuto dell'Ala 48, dell'Ala 48 mi è dispiaciuto, non è che l'ho avuto né per bisogno di soldi, niente, mi ha preso in un momento e poi te lo avevo acceso, l'avevo proprio contratto, perché dicevano che era un signor apparato, ce l'avevo un sacco di persone, me l'aveva consigliato il mio amico, che se non voleva più di provare, il signor 91 me l'aveva consigliato, lui c'era un metro in macchina, e ho detto di quello, l'ho pigliato e l'ho comprato, però l'ho usato poche volte perché non parlavo con Costanzo, dove dici quel piccolo a volare, e poi della sede mi ha convinto e mi ha dato, riprende il maschiliato. Capo, ma forse hai fatto male a darlo, perché questi Ala 48 adesso, io non dico proprio in questo momento, ma vedrai fa un paio d'anni come sono ricercati, perché adesso fanno questo BSX, ma è tutto a microchip, capito? Una volta, un mese in tre ci hanno fatto con questi microchip, no, secondo me sono ancora dei bellissimi apparati, poi il mio è tutto con le luci blu, cioè una bella cosa anche come estetica, capito? Io adesso, Massimiliano, in questo momento sto usando l'Ala 78 Plus e questo c'ha 400 canali dentro. Comunque sta andando bene, la radio va benissimo, il segnale purtroppo tra di noi ci dovrebbe essere qualche ostacolo, un po' bassino, però la radio va benissimo, non so come tu mi ascolti a me. Ti ascolto 9-10, 9-10, se parli di giorno avrete ancora più forte, la notte si abbassa un po' il segnale, comunque questo è il nuovo di pacca la Fariccio, questo l'ha modificato con tecnico che fa il lavoro della Roma dei Carabinieri, non di qui, di continente, che sarebbe collega con il cognato dell'amico tuo. Gatta, dai, ho capito di chi sto parlando, va. Sì, abbiamo già, sì, la volta sono salito a muro, se c'era quella persona lì, il cognato, sì, ho capito. Ok, avanti, chi c'è? Antonio, bombolo. Gatta, stavo proprio guardando lì, su YouTube, ce n'è uno che è una bomba, quello che quando schiacci diventa rosso. A me tutti questi colori, la verità, non è che piacciono più di tanto. Secondo me l'ideale è così azzurro come l'Ala 48, è bello così. Però addirittura ci sono quelli che fanno 50.000 colori, cazzo, lo schiacci diventa rosso, lo schiacci nuovo diventa verde. Comunque, secondo me l'apparato che si può fare più modifiche. Come esce soprattutto, è una cosa micidiale. vicino? No, presto non c'è, no. Presto entra nel sito, con le ragioni che ne chiede il prezzo, ma penso che sia intorno ai 600 euro, mi pare. O 650 euro. Perché io, quando è, avanti di notte ci sono entrato su YouTube e me l'ha dato così lo stesso, trasparente, 550 euro più 15 euro di spedizione. C'è tanta gente che l'ha comprato e non gira come deve girare. Tu prendi adesso Giovannino originale, tanto l'ha comprato uno così da internet, già tutto modificato col doppio modulatore, tutto quanto, l'ha dato a Roberto perché non riuscivano a toglierne piede, l'ha dato a Roberto e anche Roberto mi sa che non ne ha tolto piede. Quello di Follia Elettronica, quello della Sicilia, sarebbe quello lì, il cazzo di fanno che girano, ci sono camionisti che stanno quello vediamo ogni giorno in frequenza, al cazzo di senso di Follia Elettronica, quello non è vero, se i siciliani sono tutti vati da Follia Elettronica. Ma chi ha Albatros? Compagnia, le più antiche, adesso mi sfuggono i nomi antichi, ma sono tutti fatti che in Sicilia le fa Follia Elettronica. Ehi, ma ti sto dicendo io, Pierpaoli, l'ha comprato Giovannino l'originale uno, però adesso non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, e l'ha dato a Roberto rapido, non riusciva a togliere piede perché non girava bene, capito? L'eco specialmente. Adesso so che stanno facendo addirittura con triplo doppio modulatore. Triplo, quadriplo, cazzo, ma girare però che si sa quando l'avrebbe tirato l'aereo. Ma poi sinceramente parlando a lui, sinceramente non c'è voce per far girare quelli lì, dai. Perché sono malacchini anche perché purtroppo per quella gente che c'ha i mongioni non sono fatti per quelle mongine sottili così, dai. Infatti, perché Giovannino cattivando famiglia sembra che stia sempre vomitando, non riesce, eppure Giovannino c'ha baracchinetti non indifferenti, tanto con 2000 avanti sotto, cioè già ha speso un pochino di soldi, però quando non c'è il timbro di voce per far girare quegli apparati, inutile, puoi comprare anche 10.000 euro di spese per farci, ma non gira come deve girare. Così via. Ok, dai, detto questo, ragazzo nei belli, io mi sa me ne passo il 144 e guardo una mezz'oretta di TV e poi me ne vado a dormire. Anche il comandante mi ha fottito, mi ha suonato il telefonino, l'ho spento e mi sono alzato alle 8. Aspetta, Massimiliano, ti voglio dire una cosa, c'è un'altra frequenza di qua, non dico il nome, comunque camionista, che può occuparsi, un maracchino che vuole che li modificate, però per carità di Dio, non per colpa sua naturalmente, però se devo mettere in testa che vuole sia di te, il fatto quello è che sente gli altri e dice che non li capisce, che non sto riuscendo a fare modulazione. Ma lui sinceramente per la voce che ha, questi maracchini, ne può fare di mille cose, ma non tanto di converticare chi. Cazzo pare non lo fa, però cazzo non lo comprendo nemmeno. Manco cosa dice. Per carità, ripeto, non per colpa sua, perché la voce gli ha dato Gesù Cristo, ma però c'è una mania troppo di criticare e di dire le cose che non sono, anche, ma te lo voglio dire verticale, va? Che? Allora tu mi hai detto che è un autista, ma io non ci credo più di tanto. Io forse ho già capito chi è, sono in due, che secondo me sono due di autisti, là. faceva dura, glielo disse alla fine. Io ho già capito di chi stai parlando, là, no, non c'è problema. Sì, è così, Terpa. Lui si può bonificare tutte le baracchine che gli pare gli piace, ma non ce n'è, no. Se non c'hai la timbrica per questo tipo di apparato, se non c'hai il vocione grosso, è inutile, non riesci a farle andare. No, ma infatti, a me le parole, non si mette a dire agli altri che non li sento bene, che praticamente l'altro giorno l'ho sentito io, sono dicendo uno che non si capiva niente, tra quale pulpito. Poi, veramente, il gatto si è messo con tutto. Così pare, cazzo gli ho detto, Ali, vai da questa critica, ma io ho sentito, da quando lo conosco, ho sentito boh, un po' di baracchino, non me lo ricordo, ma non gli si addice neanche uno, lui lo sa come vorrebbe bene, prendersi un bel baracchino normale e modulare così, almeno gli si capisce qualche cosa. Sulla batteria. Ehi, Arturo, perché poi alla fine è così, è inutile che tu ti provi a spendere tanti quattrini per fare un maracchino modificato, ma è tanto inutile che tu ti fai un maracchino modificato quando il tuo timbre, la tua timbrica di voce non si addice. Tu, l'unica cosa che puoi fare è farle cambiare la modulazione. Adesso prendi, io non è che voglio criticare fanculo a Luca di Coso di Montenurra. Cioè, se tu lo conosci in verticale a Luca Montenurra, c'ha la voce fina fina, capito? Però guarda, mi dispiace dirlo, ma anche con questo baracchino modificato non è che la radio giri bene bene, perché c'ha, ripeto, questa timbrica fina, capito, la voce fina, non è grossa come può essere la nostra, che ha questi bassi che la radio la porta bene, capito? Non per colpa sua, giustamente, però io dico, cazzo, se la radio a me non mi gira bene perché c'è una timbrica piccola, fina, di natura, ma io non spendo neanche soldi a modificarmi la radio, capito? Vedi, forse gli avrebbe bene una radio così modificata per il vocione, e c'è poi una voce possente, Capri 2 a te ti donerebbe lì così. Io diciamo mi passa anche questo che ciò per fa, però più là se capita l'occasione vediamo. Adesso voglio sistemare un l'antenna bene, l'antenna e poi vediamo, e mi passa anche questo che ciò, anzi, piglia poco spazio qui nel tavolo, perché piccoletto è già su quei canali, a voglia ce ne mi riposi il microfono, non dispiace quanto voglio che mi sento. Non ho bisogno, il camion, diciamo, ci devo andare, poi se rimetto camionista già mi metto tipo Gigi Vulcano, una roba che mi sento qua per tutto, e Gigi esce veramente bene dal camion, riprendi Massimiliano. Beh, giustamente che esce bene Capri 2, ma non con 3 watt però, esce bene anche con 3 watt, però lui si fa sentire da lontano perché oltre ai cavalli che c'ha il camion neanche altri sotto, capito? È per quello che esce bene. Sembra così, però ti aiutano parecchio, Mi ascolta però, Massimiliano, se capita che trovi signori che fermano la ESCO, adesso facendo le corna sempre, che fanno un controllo, ma ci sono quelli lì, no? Ho capito, che fanno il controllo? E ci sono quelli della ESCO, sì. Controllo, ci sono ancora questi signori, Dio, che va io. Certo che ci sono ancora. Ci sono, e come che ci sono? A voglia che ci sono. Ma bisogna stare un po' più attenti, là. Perché io in macchina, da poco ce l'avevo piantato, quello lì, sono in regola, tutto quanto, però minimamente mi permetto di aumentarle un watt, perché io l'altra volta riparevo, c'è anche quelle antenne strane, queste. E poi, dove vanno a fermarsi? Sotto il video di muro, ma io ho detto che ci metta qualche affare. io, quando la antenna mi fermano, mi hai capito, non voglio a casa, fai a tempo a nascondere tutto e ciccia, e vale a mia moglie, se non sono io, detto, non fare entrare a nessuno, chiunque sia. Perché a casa bisogna fare un'altra cosa, là, che ti spiegherò in verticale, se no non farà. Ti spiegherò un'altra cosa e vedrai che alla fine sei tranquillo come può venire chiunque, capito? Non c'è problema. Ok, dai, io vi auguro la buonanotte. Ciao Capri 2, ciao Antonio Bombolo, ciao Radio Vera. Per me passo 144 con la buonanotte a tutti, dai. Grazie del consiglio, purtroppo qua ci richiamano anche per preparare il latte alla pupa, che se no è un macello. Dai, buonanotte e ce la riascoltiamo, un salutone a tutti in generale, anche agli ascoltatori, dai, ciao ciao. Ciao Massimiliano, buon tutto per domani, è un po' 144, speriamo di sentirci anche domani. Ascoltatori. Ciao, buonanotte Capri 2, già ti ho sentito adesso perché è abbastanza fuori.